è finito in tribunale. Lo hanno fatto per il perdone ed hanno abolito la religione. Adesso c'è il culto del denaro, istituito da un banchiere avaro. Donne nude in televisione, per la merce di promozione. Sono giocattoli per i bambini e per quei vecchi cretini. Un cellulare con dorati riflessi, proprio come io mi bevessi, che ho potuto regalo di pasta per non parlare di una pasta. In questo mondo demente, popolato di squali da gente. Non si è fermato e non si è nemmeno laureato. È finito in cassa integrazione e gli hanno fottuto la pensione. A Cassa Giuseppe con Foga per comprarsi un po' la droga. Sono scappati via col motorino da uno spozzatore albino. Al cinema degli arcipoti vogliono spillare i fessi soldi. Però non sono tanto Natale che ogni scusa è congeniale. Ed assieme al mazzo torrone ci vogliono vendere il panettone. Ma è secco, finito e vecchio e finirà dritto dentro il secchio. Antico consumismo imperante, si prosta mammona adorante, ma delle illusioni non ci interessa, intanto nei magazzini c'è la ressa. Tutti che cercano l'erba a foglio, pronti a svuotarsi il portafoglio, ma non la trovano nemmeno nel giardino di un rumeno. Il governo reprime la protesta, con i gianduiotti e botte in testa. Tutti quanti hanno perso la ragione, la mafia taglia il meridione. Questa violenza non ha mai sosta, i borghesi mangiano la ragosta, rifiuti e merda sparsi per le strade, mentre ricco il fisco evade. Il sacro non viene più rispettato, per quest'anno ogni capo seminato. Edonismo e pornografia dell'anno sono il nostro pane quotidiano. Gesù bambino è andato abortito e qualcuno si è pure divertito. Tra i campanelli e i luci scintillanti hanno mattato i nostri santi.